versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon anno, visto che non ci siamo sentiti oggi in questa prima puntata pre 2014 la versione di Oscar. Il tema è quasi obbligato, visto l'importanza che l'accordo della notte di Capodanno fatto da Fiat per l'acquisizione integrale del oltre 41% di quota residua che ancora non controllava di Chrysler, ci fa ricominciare l'anno con un tema che era stato praticamente l'ultimo che abbiamo trattato quando ci siamo lasciati con un concessionario che ci parlava dell'eccezione della sua impresa rispetto a un bilancio complessivo del settore degli autoconcessionari in Italia in linea con un mercato che è dimezzato rispetto al pre-crisi. Ed ecco che invece la notte di Capodanno Sergio Marchionne si conferma come il miglior talento in un'area specifica del manager. Ci sono i manager che amano i prodotti, i manager delle grandi aziende dell'auto di solito sono dei car guy, conoscono le piattaforme, i modelli, sono ingegneri. No, Marchionne è un grande ottimizzatore finanziario ed è un grande esecutore di trattative, e l'ultimo dell'anno ha fatto un colpo che i più non si aspettavano, perché ha chiuso a un prezzo basso, molto più basso delle attese per la cassa di Fiat, l'acquisizione di questo 41,5% di Chrysler, che era nelle mani di il fondo dei sindacati, United Auto Worker americano. Il sindacato aveva negli ultimi due mesi complicato questa acquisizione perché voleva più denaro, aveva costruito l'ipotesi di un'offerta pubblica di mercato su questo 41,5%, la Corte del Delaware aveva quindi preso tempo, si parlava di una stima fatta da alcune banche di Chrysler intorno ai 10 miliardi di dollari almeno, anzi 10-12, quindi significava che quel 41% valeva 5 miliardi o più, e questa è la cifra che si aspettava il sindacato. Invece nella trattativa di ieri sera, anzi di due notti fa, Marchionne chiude per un esborso che per Fiat si limita a 1,75 miliardi di dollari, e tutto il resto, la parte che manca fino a 3,6 miliardi, uscirà dalla cassa di Chrysler, uscirà attraverso un aumento, un dividendo straordinario, voglio dire, che incasserà il sindacato, e poi in tre tranche annuali per altri 700 milioni di dollari. Però Fiat tirerà fuori solo 1,75 miliardi di dollari. Se lo paragonate ai 36 miliardi di dollari pagati da Daimler quando acquisì il controllo integrale della Chrysler, stiamo parlando all'inizio degli anni 2000, o se lo paragonate anche solo alla cifra che sborsò il fondo Cerberus quando rilevò l'80% un anno prima che Chrysler fosse al fallimento e tirò fuori più di 7 miliardi di dollari, capite bene che Marchionne fa veramente un colpo a effetto. Allora, oltre ai particolari di questo colpo a effetto, per quello che si è potuto capire, cominciando da ma come mai non si era detto che Fiat non aveva accesso alla cassa Chrysler per fare l'unificazione, doveva pagare di suo, e invece scopriamo che può farlo ricorrendo proprio alla cassa Chrysler per pagare il sindacato. Bisogna interrogarsi a questo punto su che cosa significa questa fusione, e come hanno scritto in una lettera congiunta Marchionne e Elkann, è una data storica per loro, perché significa non solo avere il controllo integrale di Chrysler. Ricordo tutti che Chrysler nella primavera del 2011 ha restituito integralmente gli aiuti, 7 miliardi e mezzo di dollari avuti dal governo americano, non come General Motors. Il governo ha venduto a fine anno adesso le quote residue pubbliche di General Motors e ci ha rimesso 10 miliardi di dollari in General Motors. Chrysler le ha ripagate, e da oltre 40 mesi inutile la Chrysler negli Stati Uniti, ha più del 50% di venduto in più rispetto al momento in cui perdeva 100 milioni di dollari al giorno, e arrivò poi su scelta dello zar nominato da Obama la Fiat a subentrare. Ma è una data storica perché, dicono Marchionne e Elkann, soprattutto consentirà l'unificazione vera di due strutture che fino a questo momento non erano consolidate dal punto di vista industriale. E quindi le domande che noi rivolgeremo oggi a uno dei massimi esperti della materia sono proprio relative a che cosa vuol dire davvero dal punto di vista tecnico per un gruppo che sommato ha fatto 4 milioni di vendite di autoveicoli, di automobili nel 2012. Ha davvero un senso ancora dire che ha in un tempo ragionevole, cioè pochi anni, possono arrivare a 6 milioni, riuscirà a recuperare il gap molto pesante che c'è sul mercato cinese. Cosa vorrà dire per l'Italia? Rassegnarsi al fatto di essere un mercato così marginale, con un'Europa che perde e continua a perdere, un'Italia che ha perso tantissimo rispetto a un gruppo che a questo punto ragiona in termini mondiali. È sensato pensare che marchi come Alfa Romeo, siamo arrivati al quarto annuncio di nuovi obiettivi in 6 anni per Alfa Romeo, verranno rilanciati davvero coi soldi della cassa fatta da Chrysler negli Stati Uniti, oppure ci saranno ridimensionamenti? Ecco, l'Italia è pronta a capire che è un bene per sé, oltre che per la Fiat, che un'azienda che era in pre-default nel 2004-2008 riesce a diventare mondiale, con uno spericolato, devo dire, e straordinario Marchionne che fa il deal. Però certo, dal punto di vista del sistema Italia, questo paese che vede molte sue chicche vendute a buon prezzo agli stranieri che se le comprano e per il resto pochi investimenti diretti esteri, per il sistema Italia è un bilancio amaro, dopo più di 100 anni di storia Fiat, vederla proiettata con buon, ottimo successo per sé, ma con un paese che non è mai riuscito ad avere produttori alternativi e che quindi adesso vede i 5 stabilimenti Fiat con un grande punto interrogativo. Queste sono alcune delle domande. Vi presento l'ospite a cui giro tutto questo complesso di cose, farò brevissime domande, e con noi il direttore della Bibbia Mondiale per le questioni dell'auto, Automotive News, e lui è direttore per Automotive News Europe, Luca Ciferri. Grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Buongiorno e auguri a tutti. Allora, sorpreso anche lei della chiusura a Capodanno? No, perché ce lo si attendeva a fine anno, in quanto nel contratto col governo c'erano degli scalari di rivalutazione del valore massimo che il sindacato poteva incassare, che sarebbero cresciuti ancora il 1 gennaio, quindi chiudere il 31 faceva una differenza nell'ordine di $500 million. Perché ci avrebbe perso il sindacato? No, saliva il cap da circa 5.5 miliardi a 6 miliardi, il massimo che il sindacato poteva prendere. Ah, okay. Quindi stupito non tanto dei tempi, neanche onestamente della cifra, perché in fondo la transazione totale è 4.2. Però come si spiega questo fatto che il più viene tranne 1.75 miliardi che la Fiat può dare senza fare manovre straordinarie sul proprio capitale, viene dalla cassa di Chrysler? Ma direi... Allora, io farei una piccola premessa. Ammiratori e detrattori di Marchionne oggi devono riconoscere che ha fatto di nuovo un deal eccezionale, perché riesce a portare a casa il controllo di Chrysler con un esborso diretto di Fiat molto modesto, 1.75 miliardi sono poco più di 1.2 miliardi di euro, e non riusciva a accedere alla cassa della Chrysler, ma praticamente ha preso la cassa della Chrysler, l'ha girata al sindacato senza portarla a Fiat, esatto. E quindi così ha ridotto l'esborso diretto di Fiat. Io devo dire, mi corregga se sbaglio, mi aspettavo qualche magari osservazione critica da testate americane stamattina, però io ho visto Wall Street Journal, New York Times, Financial Times, nessuno dice niente su questo, quindi non ci sarà un'obiezione su questo. Ma il problema secondo me è in altri termini, cioè può essere l'azionista di minoranza di una società che contesta come l'azionista di maggioranza spende la cassa della società in questione. Ma quando l'azionista di minoranza è quello che porta a casa... E in questa sta l'astuzia. È l'ultimo che sta a fare discussioni. Se proprio vogliamo cercare... Forse abbiamo un po' sottovalutato il fatto che Weber il sindacato, il fondo del sindacato, abbia un po' l'acqua alla gola. Ma allora io credo... Allora, non credo... In questi termini, loro hanno un'obbligazione che ha rilasciato Fiat parte del contratto, che dà un 9% annuo di interesse, quindi hanno un alimento, un'alimentazione quasi continua ogni anno delle loro necessità. Il problema è che, essendo un fondo pensione, in questo momento aveva tutto il suo capitale investito in azioni Chrysler, e qualunque gestore di fondi sa benissimo che la peggior gestione è avere tutti i propri asset su un solo titolo. Quindi avere portato a casa una cifra che poi in fondo è in linea con i 10.5 miliardi che veniva dalle medie delle valutazioni per andare all'IPO che il VEB aveva chiesto, non è secondo me importantissimo avere guadagnato 100-200 milioni di meno, ma dal closing, dal 20 di gennaio, i gestori del VEB potranno fare una gestione titoli conservativa su più di un titolo, e quindi dare nel lungo periodo una maggior certezza di pensioni di assistenza sanitaria ai loro dipendenti, perché era bello avere tutta una crisi, ma se la Chrysler fosse fallita un'altra volta, questi si perdevano tutti, così adesso possono investire e fare una gestione attiva del loro portafoglio. In questo momento è una gestione passiva, avevano i soldi lì in cassa. Detto questo, ecco, l'unica osservazione negativa, la cassa è una sola, ecco. Anche se non si può essere, quindi la Fiat tira fuori poco dal suo forziere di Lingotto Torino, ma depaupera la cassa di Chrysler, che era cospicua e al momento era di 11 miliardi e mezzo più o meno. Al momento del closing esce 1,9 miliardi più i primi 175 milioni del quadriennale da 177 a 700, quindi escono 2 miliardi e 75 il giorno del closing. Quindi... La versione di Oscar. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, 16:46 minuti e 55 secondi, e con noi Luca Ciferri, direttore di Automotive News Europe. La notizia ovviamente da commentare è il perfezionamento dell'accordo la notte di Capodanno, la notte precedente, l'ultimo dell'anno, con Sergio Marchionne per Fiat. Dall'altra parte il sindacato e il suo fondo americano Weba, che aveva in mano il 41,5% di Chrysler. Fiat, se arriverà l'approvazione entro 20 giorni del governo americano, prende il 100%, quindi unificazione anche industriale. Una delle domande obbligate discende da un fatto che quando Marchionne disse al Parlamento italiano, perché era nel 2009 quando lo disse, disse sì, è vero che la Fiat salva Chrysler, ma è vero anche il contrario. I numeri sembrano dire esattamente questo, visto che in realtà la Chrysler va molto meglio delle aspettative, cioè produce signori utili. Nel terzo trimestre di quest'anno Chrysler da solo ha fatto profitti per 862 milioni di dollari, mentre invece Fiat va molto peggio, cioè Fiat in realtà in quel trimestre, con qualche artificio contabile, ha generato solo 27 milioni di dollari profitto, e in realtà le perdite europee della Fiat 2012 sono state oltre 700 milioni di euro. Quest'anno le previsioni erano che scendessero a 400 milioni di euro, però sta di fatto che se andiamo a vedere le unità vendute da Fiat in Europa, erano 1.100.000 4 anni fa, 700.000 nel 2012. Quest'anno, secondo i dati, con le previsioni, gli ultimi mesi ancora non li conosciamo, gli ultimi due mesi, ma dovremmo essere ancora 100.000 unità sotto quelle 700.000. Chi ha salvato chi, Ciferri? Ma direi che è vero quello che è stato detto: prima è stata Fiat a salvare Chrysler e in questo momento è Chrysler a salvare Fiat. Detto questo, bisogna però considerare che le aziende operano dei mercati, quindi la Chrysler è andata molto meglio delle attese, perché il mercato americano, che è andato in crisi prima di quello europeo, ha avuto un'uscita dalla crisi molto più veloce e sta crescendo a un ritmo che era sopra le attese. Quest'anno si venderanno circa 15 milioni e mezzo, quando il piano di Marchionne per la Chrysler prevedeva 14 milioni e mezzo di vendite negli Stati Uniti. Al contrario, l'Europa è andata in crisi un anno dopo dell'America, però ha chiuso ieri il sesto anno consecutivo di vendite in calo, e a un livello che non è il minimo storico, ma il minimo storico da 25 anni. Quindi ci sono stati due cicli di mercato completamente opposti, che hanno aiutato Chrysler a fare meglio del previsto e hanno appesantito Fiat a fare peggio del previsto. Aggravante nell'aggravante che il mercato che è andato peggio nel lungo periodo in Europa dopo la Spagna è stata l'Italia, che sostanzialmente l'anno scorso, adesso i dati li avremo probabilmente domani, ma dovrebbe aver chiuso sotto 1.300.000 unità, quando soltanto 5 anni fa se ne facevano 2.500.000. 2.500.000, come no? Si è quasi dimezzato il mercato domestico. Di questo abbiamo parlato la settimana scorsa. Sì. È chiaro che se ne paga un prezzo. Ma adesso, per i 5 stabilimenti italiani, è immaginabile che i modelli che a Fiat sono mancati negli ultimi anni, ricordiamo che Fiat era nel pre-default del 2004 quando arrivò Marchionne, era ai minimi storici del titolo al pre-default di nuovo a inizio 2009, il titolo all'epoca era poco più di 3 euro rispetto ai 6,7 che è oggi in borsa. I modelli che sono mancati, perché Fiat aveva difficoltà, non ha investito, perché il dopo multiplo non l'ha fatto, il dopo croma non l'ha fatto, il dopo punto non l'ha fatto, che questi adesso arriveranno con cassa di Chrysler Chrysler, oppure semplicemente ci sarà un obbligatorio focus del nuovo gruppo sul gap cinese da recuperare a livello mondiale innanzitutto, perché se prendiamo sul serio quei 6 milioni che continuano ad essere l'obiettivo e pensiamo che Volkswagen era oltre 9 milioni nel 2012, Toyota era 9.8 milioni nel 2012, e la vera sfida è quella asiatica più che questa europea, o no? Ma direi che sono vere entrambe le cose. La prima è che l'incertezza su come chiudere la partita Chrysler e la crisi del mercato europeo hanno rallentato e per molti anni direi anche congelato gli investimenti in Europa. E quindi si è tenuta una liquidità anomala per essere pronti, se fosse stato necessario, a mettere sul tavolo i 4-5 miliardi di dollari direttamente dalla cassa Fiat che servivano per comprare il rimanente 41,5, andare al 100%, fondere due società, fare una quotazione a Wall Street, non sappiamo oggi dove sarà la sede legale, ma diciamo che è un dettaglio, fare un IPO con un sostanziale aumento di capitale da parte di nuovi soci che entrano in questo gruppo multinazionale, e quindi si creano le risorse per fare gli investimenti che sono stati rimandati in Europa, ne sono stati rimandati anche alcuni in America, ecco perché serviva così tanta cassa in Chrysler e anche lì sono stati rimandati degli investimenti nella cassa Chrysler, serviva per liquidare il VEBA. Detto questo, io la vedrei in questo modo. Complimenti a Marchionne per quello che ha fatto in termini di finanziere come Kingmaker. Esatto. Adesso auguri a Marchionne industriale che non ha più scuse. Però il problema è che lui un car guy non è un car guy, cioè come si fa a immaginare che Marchionne faccia qualcosa che non appartiene alle sue corde? Il che significa poi porsi la domanda: quanto resta lì, e adesso che c'è l'unificazione, non arriverà un car guy magari americano da questo punto di vista? Beh, sicuramente. Allora, chiudiamo prima il capitolo Cina. La Fiat e la Chrysler in Cina sono stati tra i primi a sbarcare e tra i primi a infrangersi sul Mar Giallo, quindi hanno un ritardo mostruoso che non è irrecuperabile, perché è un mercato che cresce dai livelli tali dove c'è spazio per tutti, soprattutto se giochi con marchi come Jeep, come Alfa Romeo, che sono cose che hanno un futuro anche in un mercato come la Cina, che non, noi abbiamo una visione del mercato cinese che è un po' distorta. Noi pensiamo sia un enorme mercato di macchine cinesi per il proletariato, invece basta Cina vedere i tedeschi quanto vendono e quanto margine fanno. In Cina, che è un mercato da circa 18 milioni di pezzi, il 25% scarso di quota le fanno i costruttori cinesi autoctoni, con delle macchine un po' che lasciano il tempo che trovano per i stand europei, ma il 75% lo fanno europei, americani, giapponesi e coreani, con le stesse macchine che vediamo qui in Italia e che sono prodotte in Cina. Quindi il ritardo in Cina c'è, però un po' si può recuperare. Io credo non puntino molto ai volumi quanto ai margini, quindi giocare con Jeep, giocare con Alfa Romeo, giocare con Maserati. La Maserati quattro porte, il mercato in cui è venduto di più è in Cina. C'è dubbio. Riccardo Ruggeri, oggi ex manager che ha portato al successo le macchine agricole Fiat tanti anni fa, che continua a scrivere da me azionista di Fiat, ha detto che bisognerebbe chiamarlo più che altro Chrysler Maserati, perché è Maserati la parte di valore aggiunto vero che viene apportata dall'Italia. Ma lei ha detto Alfa Romeo, lei crede davvero che Alfa Romeo abbia possibilità, dopo quattro volte che Marchionne sbaglia clamorosamente, di essere Ferrari? Ecco, sì, questo lo dice. Ricordiamoci che a un certo punto gli analisti prevedevano che per poter andare al 100% di Chrysler la Fiat ci dovesse in qualche modo vendere i pezzi di Ferrari, cioè l'argenteria di famiglia lasciata nella sua teca blindata. Anche perché quella vale un moltiplicatore, quello vale un moltiplicatore. Ma lei crede invece che Alfa Romeo possa essere a parte di questa strategia, dopo in questi anni abbiamo visto ritorno di un milione di unità vendute ogni volta diventare sempre più lontano, ridicolo? Allora, nell'automobile si possono ritardare gli investimenti di uno o due anni e poi riprendersi. L'Alfa Romeo è stata lasciata in un limbo da quando Fiat l'ha comprata nell'88. Io ho scritto un pezzo recentemente in cui ricordavo che non era un matrimonio d'amore, ma era un matrimonio di interesse. Ah, certo. La Fiat compra l'Alfa Romeo per impedire alla Ford di entrare in Italia. Quindi la gestisce sempre, come disse l'avvocato Agnelli, come la provincia debole, senza amore. L'amore di Torino era la Lancia. E allora domanda, perché negli ultimi 3 anni una domanda è aleggiata tra alcuni di noi, anche sindacalisti, Airaudo, qualche politico, dice, ma non è meglio adesso che si deve focalizzare sulla sfida asiatica per recuperare il gap mondiale dei grandi che sono in cima alla lista? Adesso Fiat Chrysler Unita è 7ª al mondo, non è meglio vendere ai tedeschi, a Volkswagen, e avere un altro produttore in Italia? Lei che dice? Allora, io personalmente ho scritto 3 anni fa che se fossi stato Marchionne avrei venduto l'Alfa Romeo, e negli incontri successivi mi ha fatto notare che non era assolutamente della mia opinione, del resto l'aveva lui e non l'ha venduta, quindi questo è il problema. Oggi come oggi credo che venderla sia un po' tardi, nel senso che ormai è una marca che è stata così negletta che quest'anno venderà nel mondo, se le mie previsioni sono sbagliate, 75.000 macchine, che grosso modo è quello che l'Audi di proprietà della Volkswagen vende in 15 giorni. Sì, più o meno. Quindi siamo arrivati a un livello, cioè è come rifondarla, è come ha fatto 30 anni fa la Toyota quando ha inventato la Lexus, è partita da zero e ha costruito un marchio. Credo di più che potrebbe farlo Volkswagen, però mi sbaglio. Però attenzione, la Lexus fa delle macchine che sono all'avanguardia della tecnica, al pari dei tedeschi primi, Mercedes, BMW, Audi, ma gli manca il marchio, gli manca il cachet, e quindi a parte gli Stati Uniti, in Europa, in Asia, nello stesso Giappone, se sei una persona che ha avuto successo e vuoi fare vedere il tuo successo, vai in giro, abbiamo un Audi, una Mercedes, una Jaguar al limite. Sì, ma certo non più con l'Alfa Romeo. Capito. La tu di più è che Alfa Romeo è un marchio fortissimo, con una grande storia su cui si può costruire un futuro che ha delle basi. Vedremo, molto perché bisogna cash io ne vedo poco. Due risposte, sì o no? Arriverà nel corso di 12-18 mesi un azionista estero nella compagine Chrysler, secondo lei? Ma sicuramente, nel senso che io a occhio immagino che su questa IPO verso marzo-aprile sono d'accordo sul mercato, secondo me è questo che serve, se no non vedo come la forza finanziaria. Seconda domanda, gli stabilimenti secondo lei restano così come stanno in Italia? Questo è quello che lui ha annunciato, questo piano di Alfa Romeo con questa nuova piattaforma a trazione posteriore fatta per sfidare i tedeschi sul loro terreno. Questo è il piano, non è stato implementato fino ad oggi perché non c'erano risorse. Esatto. Dopo l'IPO a Wall Street e l'entrata di capitali fresco, non ci sono più scuse. Va bene, grazie a Luca Ciferri. Vedremo quale di queste promesse industriali di Marchionne verranno mantenute. Intanto complimenti a lui per la finanza. Continuate su Radio 24, appuntamento a martedì dopo l'Epifania.